La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al tramonto della stagione dei governi centristi in Italia. Vi raccontiamo di una giornata particolare del 1960, quando a Porta San Paolo, luogo simbolo della resistenza romana, una manifestazione antifascista contro il governo Tambroni venne dispersa dalle violente cariche della polizia e, per la prima volta in epoca repubblicana, dei carabinieri a cavallo. Ospite ai nostri microfoni Giuseppe Sircana, autore de Un giorno, una vita, Roma, 6 luglio 1960, pubblicato da EDS. Ma adesso la parola va a Dino Pesole. Il periodo che va dalla fine degli anni 50 del Novecento all'inizio degli anni 60, ve lo abbiamo raccontato nella scorsa puntata della Storia e la Memoria, non è solo il periodo del boom economico, sono anni di grandi, profonde trasformazioni nella società e nella politica del nostro paese. Proprio in quegli anni si avvia al tramonto la stagione dei governi centristi, che con la Democrazia Cristiana di De Gasperi ha dominato la scena politica dell'immediato dopoguerra e si apre una fase nuova, una fase di graduale apertura al Partito Socialista che consentirà di dar vita ai primi governi di centrosinistra. Ma non è un passaggio indolore, come mostrano gli avvenimenti del 1960, anno cruciale che vede formarsi e tramontare rapidamente un'esperienza politica da molti ritenuta improponibile, vale a dire un governo monocolore democristiano appoggiato dai monarchici e dagli ex fascisti. Il governo resta in carica pochi mesi, travolto dalle proteste e dalle manifestazioni di piazza. Le cronache di quelle giornate ci vengono ora riproposte dal libro di Giuseppe Sircana, Un giorno, una vita, Roma, 6 luglio 1960, pubblicato da EDS. Nelle elezioni politiche del 1958, la Democrazia Cristiana ottiene un netto successo incrementando i suoi consensi dal 40,1% del 1953 al 42,4%. In ascesa anche il Partito Socialista di Pietro Nenni, che si attesta al 14,2% contro il 12,7% delle elezioni del 1953, grazie alla politica di dialogo e confronto da poco instaurata con il partito di maggioranza relativa. Il Partito Comunista si conferma il secondo partito con il 22,7% dei suffragi, mentre il Movimento Sociale passa dal 5,8% al 4,8%, con i partiti di ispirazione monarchica che scendono al 4,9% rispetto al 6,9% del 1953. Voti che confluiscono per gran parte nella lista della Democrazia Cristiana. Si rafforza in tal modo la schiera di quanti nella DC si oppongono a qualsiasi ipotesi di apertura a sinistra. In questo scenario, che peraltro a livello internazionale, lo ricordiamo, vede in piena guerra fredda acuirsi le tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica, si forma un governo monocolore democristiano presieduto da Antonio Segni, sostenuto anche dalle destre. Nel marzo di quello stesso anno, il 60, in seguito alla dissociazione dei socialdemocratici, Segni sale al Quirinale dal Presidente della Repubblica, che allora era Giovanni Gronchi, e si dimette. La situazione è molto complessa, come mostra il fallimento di ben tre incarichi esplorativi. A questo punto Gronchi incarica di formare il nuovo esecutivo a uno dei suoi fedelissimi, appunto l'avvocato Fernando Tambroni, ex ministro dell'interno del governo Segni, che si presenta alla Camera e ottiene la fiducia grazie al voto decisivo del Movimento Sociale Italiano. Esperienza brevissima, 4 mesi, per un governo travolto dalle proteste che esplodono nel paese. A Roma, il 6 luglio del 1960, a Porta San Paolo, una manifestazione antifascista viene repressa duramente dalla polizia e dai carabinieri a cavallo. Ecco una testimonianza di quella giornata tratta dal libro di Giuseppe Sircana, quella di una militante comunista, Tina Costa. Ero iscritta alla sezione del Partito Comunista Italiano di Piazza Ragusa. Dal partito era venuta l'indicazione di partecipare a questa manifestazione contro il governo Tambroni. Andai a Porta San Paolo. Quando sono cominciate le cariche, abbiamo cercato di difenderci in ogni modo. Ad un certo punto ci siamo visti i cavalli davanti alla faccia. Insieme ad altri compagni abbiamo trovato rifugio in un portone di via Marmorata. Una compagna, Anna Maria, è stata fermata mentre io sono riuscita a salvarmi grazie al mio accento romagnolo. Con il mio dialetto ho raccontato al carabiniere che mi trovavo lì per caso. Dovevo andare da mia zia a Trastevere. A ripensarci mi viene da ridere. Se solo avessero guardato le mie mani, avrebbero scoperto che erano scorticate per togliere i sanpietrini dal selciato. Non dovevamo difenderci? Testimonianze dal vivo di una giornata ad alta tensione. Buonasera Giuseppe Sircana, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Lei è storico, ha collaborato tra l'altro al dizionario biografico degli italiani dell'enciclopedia Treccani. Allora ci racconti, così come è scritto con molti particolari nel suo libro, cosa accadde a Roma la sera del 6 luglio del 1960. Voi avete ricordato già molto bene il contesto nazionale in cui si collocano questi fatti. Diciamo ancora che i fatti di Roma, di Porta San Paolo, vengono dopo la protesta di Genova che aveva poi costretto il governo a revocare l'autorizzazione a far svolgere in quella città il congresso del Movimento Sociale. Per le stesse ragioni, diciamo così, di antifascismo, si era mobilitata a Roma un vasto arco di forze politiche e sindacali. In più erano scesi in campo numerosi parlamentari. Era stata chiesta l'autorizzazione per questa manifestazione che doveva svolgersi a Porta San Paolo, poi è stata improvvisamente revocata dalla prefettura. Questa revoca, allora non c'erano i mezzi di comunicazione rapidi di oggi, quindi è venuta il giorno stesso, nella mattinata del 6 luglio. Gli organizzatori, che poi formalmente era il Consiglio della Resistenza, Federativo della Resistenza, un organismo nel quale aderivano tutti i partiti, non solo comunisti e socialisti, ma anche repubblicani, radicali, socialdemocratici, le associazioni partigiane. Quindi questi rappresentanti di questo comitato si recarono al prefetto dicendo che comunque era tardi per far revocare l'autorizzazione, che ormai parecchia gente, anche dai paesi vicini, si preparavano a partecipare a questa manifestazione. Ecco, e poi quello che emerge anche dal suo libro è anche soprattutto la brutalità, no, della reazione. E per la prima volta poi in una manifestazione pubblica fecero il loro ingresso i carabinieri a cavallo. Non a caso la testimonianza riportata nel libro dice proprio ci siamo visti i cavalli quasi sui nostri... Sì, ecco, la cosa che è colpito un elemento da tutte queste testimonianze, c'era gente che aveva già partecipato ad altre manifestazioni e anche dopo, militanti che erano abituati a manifestazioni un po' calde, a scontri di piazza. Eppure questo elemento della carica dei cavalli e appunto anche della brutalità viene sottolineato da tutti. Quando gli organizzatori fecero presente che era tardi per evocare la manifestazione, il prefetto confermò il divieto. A quel punto scesero in campo tutti i parlamentari della sinistra che confermarono la loro partecipazione a questa manifestazione. Furono diramate disposizioni, sapendo che la presenza dei parlamentari poteva rappresentare uno scudo, di non tener conto della loro qualifica di parlamentari perché la manifestazione era vietata e quindi non esisteva immunità parlamentare. Infatti poi quando ci furono gli scontri, diversi di loro, oltre ad essere insustati, furono anche malmenati, qualcuno arrestato, stava portato in questura e poi rilasciato chiaramente dopo che si era qualificato. Ecco, quello che accadde a Roma, ma anche nel paese in quei giorni, fu la chiara, anche un punto di passaggio nella storia politica del nostro paese, cioè definitivamente con l'eclissi di questa esperienza che in qualche modo faceva ritornare tutti al passato, si apre una nuova stagione politica. Non a caso poi da lì a poco ci saranno i primi governi di centrosinistra presieduti da Fanfani. Sì, crisi del centrismo, questo esperimento anomalo, perché oltretutto Gronchi era proveniva dalle file della sinistra di C e Tambroni era un suo uomo, quindi avrebbe dovuto andare in tutt'altra direzione questo esperimento. Però ecco, dopo questi fatti, con poi le dimissioni del governo Tambroni il 19 luglio, aprirono poi la strada al centro-sinistra. Possiamo dire che crearono anche il terreno per una maggiore unità tra i sindacati. Ecco. Infatti qualche anno dopo, con le manifestazioni degli elettromeccanici a Milano, furono sperimentati i primi tentativi di unità d'azione dei sindacati a Brescia e a Milano, e quindi avviarono una nuova fase del movimento di unità tra le CGIL e CISL UIL. Da un altro punto di vista si può dire che però allarmarono, diciamo così, quegli apparati dello Stato fatti anche recentemente, un libro di Franzinelli sul piano solo lo mette in evidenza, proprio l'esperienza del luglio 60, dove praticamente il governo fu costretto a dimettersi dalla piazza, diciamo così, divenne uno spauracchio, per dire, in ogni caso, a prescindere adesso che si sia trattato del governo Tambroni e la conduzione di quel governo, le responsabilità, il fatto che la piazza possa decidere ed essere in grado di mandare a casa un governo non è una cosa che possiamo consentire, era il ragionamento che fecero questi apparati e infatti poi prepararono le contromisure, insomma. Certo, beh, anche questo è un aspetto non indifferente che segna pure uno spartiacque, anche perché obiettivamente decidere che un governo vada a casa in effetti sulla base di una protesta popolare era, soprattutto in quegli anni, un precedente pericoloso da questo punto di vista. Insomma, è chiaro che poi c'erano anche l'atteggiamento all'interno della democrazia, principalmente il governo Tambroni andò a casa perché non aveva più la fiducia della democrazia cristiana e di una parte importante di essa. Ma diciamo che i fatti di Roma, che si collocano appunto tra quelli di più eclatanti di Genova e quelli tragici di Reggio Emilia e della Sicilia, e comunque hanno un'importanza per la partecipazione di questi parlamentari, del fatto che sia successo a Roma e le modalità in cui è stata fronteggiata questa manifestazione, insomma, sapendo che c'erano parecchi parlamentari e mandargli contro la cavalleria. È stata una scelta grave. Grazie per il suo intervento e complimenti per il libro. Grazie.